later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, nella fabbrica di polli la prima luce del giorno non si materializza mai. Kappa e Drago scoprono di avere un giorno libero. Olastre, cosa fate di tutti i modi? Stiamo riflettendo sulla condizione umana. La tristezza della condizione umana. Ma proprio oggi. Sì, perché cosa di speciale oggi, scusa? Beh, oggi è il giorno libero. Ah, come sarebbe il giorno libero? Cos'è il giorno libero? Sì, ma non sapete mai niente voi. Non la leggete la Gazzetta del Popolo? Ma quando ero piccolo io c'era la Gazzetta del Popolo. Lo so, negli anni 70. Sì, però, no, Drago, per cortesia, adesso non fargli perdere il filo con gli anni 70, che non ce la capiamo più. Beh, oggi è il giorno libero per tutti. Succede ogni 4 anni e oggi è successo. È come le Olimpiadi, Sì, ma in che senso il giorno libero? Cosa cambia da un giorno qualsiasi? Scusa. Allora, innanzitutto sono sospese le esecuzioni. Vabbè. Cioè, i polli che dovevano essere giustiziati oggi vengono graziati. Vabbè, beati loro, però francamente chi se ne frega, polli. Aspetta! Non è ancora finita. Oggi nessuno ubbidisce. Cioè, anche se arriva l'amministratore delegato che ti ordina di fare una cosa, tu puoi rispondere: oggi ho giorno libero. Oggi ho giorno libero. Sì, oppure oggi sono di giorno libero. Vabbè, ma per noi cosa cambia, Pollo? Scusa, sono tutte cose da polli, Pollo. Quelle che mi stai dicendo, Pollo, sono tutte cose da polli. Sarebbe interessante solo se noi oggi fossimo liberi di salutare tutti e di andarcene, Pollo. Beh, potete, Ah, possiamo? Basta convincere Gaston, la guardia personale dell'amministratore. Vabbè, ma Gaston è quello che mangia solo tartare umane. Ma oggi sono di giorno libero, quindi Gaston se ne sta zitto. Bisogna vedere se anche Gaston è di giorno libero. La fabbrica di polli. Qui, la stazione del Radio Rockmanstri, l'unica radio libera e liberata da tutto il Medio Oriente. Cronaca interno. Generale Spadahara, in visita ufficiale di scuola militare, ha tirato bomba a mano a sorpresa tra plotone di reclute, che con grande vergogna non sono state capaci di evitare esplosione che ha dilaniato loro arte inferiore. Generale Sparahari tagliato testa di sergente istruttore di reclute maciulate e poi fatto spettacolare ruto in segno di soddisfazione. La fabbrica di polli. Buonasera, sono il confessionale elettrico della cappella di San Gallo. La mia natura è elettrica. Non aspettatevi da me alcuna reazione chimica. Io possiedo soltanto reazioni elettriche. Io canto il corpo elettrico, diceva il poeta Walt Whitman nell'Ottocento, e aveva ragione. L'elettricità esiste anche se non la sfruttiamo. Essa è insita in ogni atomo, e in ogni protone ed elettrone, e non ha un valore assoluto. Essa si manifesta nei due segni opposti del più e del meno, e con questo aderisce alla simmetria che nostro Signore ha immesso in ogni cosa che ha creato. Lode dunque all'elettricità, lode al progresso scientifico reso possibile dall'elettricità, lode ai volt, ai watt, ai coulomb e agli ampere. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. Scusa, sai, ti do del tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano a dir l'Ave Maria, Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo, chiedi a me, vuoi esser mortificato, chiedi a me, vuoi due frustate al volo, chiedi a me, se vuoi ti recito Baudelaire, e i fiori ti faranno male, e spero possano bastare, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più. La fabbrica di polli. Vabbè, siamo di giorno libero, però che cosa significa non l'ho ancora capito. Nemmeno io, per noi non significa niente, secondo me. Però dai, senti che silenzio. Chissà dove sono spariti tutti quanti. Non si sa, Drago, fa parte dei misteri della fabbrica di polli. Sì, sarebbe bello che dietro un angolo finisse la fabbrica e iniziasse il mondo vero. E per un giorno potessimo sederci al tavolino di un bar. A bere un martino. Ah, sì, un martino. E a guardare le ragazze agli altri tavolini. E non le solite galline cinesi. Quelle le guardi tu, Drago, io non guardo niente. Io sono degno del Monte Athos. Monte Athos no, eh. Io non ci voglio mettere più piede, eh. Pollo, sarai anche di giorno libero, ma non sai cosa fare. Sei come Fantozzi che va in pensione e poi si deprime. Lo so. E torna a lavorare. Sei la commissione me, no? Vedi, la commissione humaine. Vedi che ci dai ragione. La tristezza della condizione humaine. Non ci sono più quei bei giorni liberi di una volta. No, anche i giorni liberi adesso non sono già più quelli di una volta. Com'erano quelli di una volta? Facevamo dei bei paroxetini a parte tutti insieme. Collassavamo tutti uno dopo l'altro. E poi c'erano delle risse tra i cocoriti, Perché loro la paroxetina se la rivendono perché hanno l'istinto mercantile. L'istinto mercantile. E poi le risse erano spettacolari. Invece adesso dove sono tutti, scusa? In chat. Come in chat? Adesso i paroxetini a parte li fanno in chat. Come si fa, scusa? Con la webcam. Cioè, ingoiano la paroxetina davanti alla webcam, no? E brindano davanti alla webcam. E poi? Insomma, davanti alla webcam questi fanno tutto, Però stanno da soli, chiusi nei loro cubicoli. E i giovani sono così adesso, Questa è la generazione Tarek. Ma come generazione Tarek? Ma dai! Sembrano tutti Mino Sabes, come Tarek, sempre davanti al computer, con quelle facce che sembra che tutte le volte scendono dalle nuvole. Vabbè, dai, Pollo, è la solita tiritera sui giovani. Rilassati adesso, no? È il tuo giorno libero. Senti che silenzio. Approfittane. Dai, cerca di non andare in sbattimento, almeno per oggi, Pollo. Pollo. Sì, è una parola, Sempre lì arrabbiato, Bastasse dirlo, secondo voi inventavano Freud, Ma come inventava Freud? Ma è che Freud è nato, è cresciuto, fatti che cosa farebbero le farmacie? Questo non lo so. Cioè, uno studia farmacia 10 anni e poi non vede i psicofarmaci, Ti sembra uno che studia farmacia e poi non vede i psicofarmaci? Anzi, ti sembra uno che studia farmacia? Che cosa succederà adesso? I paroxetina party in chat funzionano o sono la solita fuffa virtuale del XXI secolo? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo pasticcheggiante allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. Good night, ladies and gentlemen, good night.